9:10. Cicu, cicu 10. Hola. Carlo. E allora? Salvatore da questa. Ciao Salvatore, come mi senti? Benissimo. E io stavo provando la radio, ho fatto un impianto di fortuna e quindi niente, ho detto ero qua in ascolto, ho detto se si affaccia qualcuno faccio una prova radio. Benissimo, nessun problema. Io stavo mettendo un po' di ferriti nei cavi per un po' di che ci avevo, adesso sembra che vada molto meglio. In tutti quante le carate l'ho messo e evidentemente lo sto intercettando. Dove sei? Via Sassari. È positivo, è via Prunizzetta, basta. Rec. Registrato. Provincia da bassa, ok, ci siamo, io sono zona Cappuccini, quindi già siamo abbastanza a tiro. No, nessun problema, ti sento benissimo. Avanti il break, ciao, buonasera. Capo, buonasera, a questo parte Antonio, buonasera a tutti. Tanto, ben sentito dopo tanto tempo. Come va? Bene, capo. Oh, Carlo, da un po' che non ti sentivo. Ciao Antonio, perché avevo cambiato casa e quindi niente, adesso ho attaccato un'antenna fuori, ma un'antenna di fortuna, non è sul tetto, è come se stessi trasmettendo dalla macchina. Non so se mi senti bene tu Antonio. Se non mi vinci no, a voglia che ti sento bene. Allora già sta uscendo benino, da almeno per la città per adesso. Poi vedo se riesco a piazzare qualcosa sul tetto, perché è un casino qua salire, perché il tetto è privato e devo chiedere il permesso, capito? Capo, bene, mi senti tu in quella zona? Fondo scala. Voce bellissima, come al solito, e segnale al massimo. Cappa, già va bene. Io zona di Madelta, Latte Dolce. Già va bene, va. Già lo so dove sei, Anto, tu a Latte Dolce. Salvatore mi sente bene, lui mi ha detto che è in zona Cappuccini, quindi sono un tiro di schioppo da qua. Sì, non c'è, ma veramente non abbiamo problemi a sentirci, tu pensa, Anto, tu arrivi a fondo scala anche se ti sto mettendo in attenuazione, quindi va benissimo, perfetto, bella chiara, pimpante. Carle, ma quindi cosa c'hai? Una cosa, un'antenna sul davanzale, come si mette? Esatto, sì, l'ho attaccata alla ringhiera, capito, e per non stare con la base magnetica ho messo un supporto metallico, così fa, diciamo, massa meglio rispetto al magnete, e dovrebbe uscire benino, dai, benino. Qua già siamo un pochettino in alto, anche se l'antenna dovrebbe stare sul tetto, però per adesso vediamo un po' se mi accontento in questi giorni e poi vedo se riesco a piazzare qualcosa sul tetto. Non ce l'hai più la Gimbal? No, è un'antenna di macchina questa, è una S9 della Midland, cioè antenne già ne ho giù, ho una, come si chiama, una Sirio, quelle che si possono mettere anche in verticale, in orizzontale, tipo boomerang, capito, e eventualmente piazzo anche quella. Capa, mi ricordo che c'è il villaggio in Folto. Non abitava Luna e Sole prima. Prima ero più su in via Dau, tanto. E siccome mi sono separato e quindi adesso vivo da solo qua, e comunque sempre in questa zona sono. Beh, là c'avevo la J-Pole sul tetto e arrivavo un po' dappertutto con la J-Pole. Ce l'ho in garage smontata, ma non credo di riuscire a reinstallarla quella J-Pole, era un'ottima antenna. Cappa, riprendi Salvato, bella quella, mi dispiace. Viene avanti Sabato. Sì, Cappa. Sabato riprende con Carlo e Antonio. Guarda, Carlo, tutto sommato, a me quando mi avevano prestato tempo fa che dovevo, diciamo così, riuscire ad adattarmi con delle antenne di fortuna, mi avevano prestato una base magnetica che avevo messo perché tra l'altro nel corrimano della ringhiera del Poggiolo si prestava anche perché è bello largo, no? Il corrimano, una decina di centimetri. Beh, la base magnetica quando poi l'ho tolta è durata, fai conto, un mesetto circa, e quando l'ho tolta aveva la forza magnetica, aveva praticamente staccato la vernice del corrimano, l'aveva tutta quanta gonfiata, la parte dove era attaccata, e facendomi tra l'altro un danno non da poco, ho dovuto tutto quanto riprendere. Quindi della serie che tutto sommato, siccome stai uscendo bene, riesce a farti sentire senza problemi, tutto sommato la condizione che c'hai adesso, se non hai fretta, puoi continuare a tenerla ancora per un po'. A te Carlo, poi gira pure ad Antonio. Sì Salvato, evidentemente si era appiccicata la gomma col magnete, magari ha fatto anche un po' di condensa e quindi si è rigonfiato tutto, lo immagino. Sì, per adesso mi devo adattare a questa situazione qua. Poi chiederò, già sono in buoni rapporti con il proprietario dell'ultimo piano, appena mi viene a tiro chiederò se c'è la possibilità di mettere un'antenna sul tetto, capito? Senza creare nessun problema, in 448 diciamo in un'oretta riuscirò a metterla. Se trovo una posizione tipo un palo si può mettere qualcosa di veloce, capito? Posso mettere anche una direttiva, capito? Ne ho diverse di antenne in garage. La più performante, come diceva Antonio prima, era la J-Pole, con quello ho collegato mezzo mondo, guarda, in un paio d'anni che l'ho utilizzata, quando c'era propagazione in banda laterale uscivo alla grande, capito? E vabbè, però purtroppo adesso non ho più quella possibilità e mi devo adattare così, per adesso va bene, dai. Riprendi Antonio. Cappa. Guarda, questa che ho io no, è leggera, l'ho messa subito, cioè, diciamo che va molto bene, è una GPE della Sirio, quella per il radiale, e ti posso dire che ce l'ho già un anno sul tetto, più di un anno, cioè più di un anno, perfetta sempre, una bomba. Leggera da montare senza farti male e cose, vuole sta vulcanizzata e cose, e va bene, avevo messo tutto nuovo, anche il capo. È positivo, e sul 10 state sempre entrando, io ho acceso oggi perché ho qualche giorno di ferie e quindi stavo diciamo rivedendo le cose giù in garage, ho detto esci che trovo un impianto di fortuna a vedere se funziona ancora questa radio, è nuova, questa è la CRT SS 9009, capito? E già sta andando bene, capito? Sì, va benissimo qua, per il momento ti accontenti, cosa devi fare? Per il momento poi abbia Brunetta, e che vuoi fare forte, le spare molto forte, spare. Per il momento magari, io come antenna ho sempre preso per buono la boomerang, come antenna di fortuna, quella grande perché pompa un bel, se c'è forte. Sì, la conosco quell'antenna, adesso mi è venuto il nome, quella che io è una Sirio SD27 e si può mettere in polarizzazione sia verticale che orizzontale. Ovviamente se la metto in verticale, non in orizzontale, se no è direttiva e sparo solo su una, non ho la possibilità di mettere il rotore, capito, per girare, e quindi la posiziono a frusta, capito, in verticale, e per la 27 va benissimo, scende anche da 25 mi sa 30 quella lì, e c'ha la taratura fissa, quindi non devi stare lì neanche a romperti le scatole. Prima della J-Pole avevo quella sul tetto lo stesso e funzionava benissimo. Adesso poi vedrò se c'è qualche palo, e non ci sono mai salito sul tetto perché non c'è una botola, niente, e un altro condomino mi ha detto che praticamente si accede dal terrazzo del proprietario che è all'ultimo piano, e quindi il problema è quello lì, capito, perché quando poi chiedi devo mettere un'antenna, che antenna è questa e quell'altro, e poi in facciata il filo qua, ma lo farei scendere lateralmente, capito, lo camufferei anche, magari ci metto un filo bianco, cavo bianco, qualcosa del genere, però è tutto da vedere ancora, dai, quindi non so. Vediamo un po' come va adesso questo impianto di fortuna e farò delle ulteriori prove, magari se entra qualcun altro. Ma sul 10 state sempre entrando, Antonio? Sì, c'è sempre gente. Sì. Lo sai cosa puoi fare? Io ci credo di mettere l'antenna per non vedere la televisione, che ci mette l'antenna tua della TV. E boh, non ridi nulla. E infatti poi vedrò, capito? Vedrò, perché meglio fare le cose in sordina se tutto va bene. Adesso vediamo cosa ne uscirà fuori, poi nei prossimi giorni o settimane già mi farò sentire meglio se riesco a piazzarla sul tetto. Sì. Se fa sentire meglio, sì. Riprendi pure, Salvatore. Sì, capo. No, io ho rimesso su, tra l'altro avevamo fatto una prova un po' di tempo fa, la Game Master, e quindi io per la 27 la Game Master, poi ti stavo dicendo che stavo mettendo un po' di ferriti perché stavo sistemando il dipolo, il dipolo dei 40 e degli 80, però con RF che mi stava disturbando parecchio, soprattutto per gli 80, che no, comunque non è alto, è abbastanza basso, e quindi non vado bene. Però io qui nel condominio comunque ho dovuto fare, ho tribolato da morire, per finirla in gloria anche con una causa legale, perché vabbè, ci sono sommate una serie di situazioni. Alla fine adesso che sono riuscito comunque poi a comprarmi uno dei lastrici, adesso finalmente sono indipendente e non devo chiedere niente a nessuno, però è sempre dipendere dagli altri, soprattutto come nel tuo caso, dover passare assolutamente attraverso a balconi e comunque autorizzazioni di altri è sempre rognoso. Il problema è che se non hai un torrino, comunque sarei costretto a mettere le antenne sui parapetti, nel bordo, nei cornicioni esterni. Un torrino non c'è, non hai mai avuto l'occasione di salire su per renderti conto di com'è la struttura del palazzo? Purtroppo non si può salire e non si vede perché il tetto è proprio centrale, ci sono altri palazzi a fianco e non ti dà la possibilità di vedere cosa c'è. E prima sì, prima dove abitavo prima c'era il torrino, infatti avevo messo lì un palo fissato bene, capito, in tre punti, in basso, al centro, in alto, avevo preso un tubo da 40 e poi lì avevo attaccato uno di quei tubi, capito, di non di antenna, ma era un ferro zingato molto lungo di 3 metri. Tieni presente che la J-Pole è alta 4 metri, capito? E quindi là praticamente davvero da quel torrino vedevo tutto il mare, la Dinara, eccetera, si vedeva metà città davvero prima, capito? Ero ancora più in alto di qua. E poi lì a fianco non avevo nessun palazzo, quindi era una posizione ottima per l'antenna, capito? Era isolata da tutto al centro del tetto, capito? E sparavo via Antonio, già mi sentiva peggio, quindi si può confermare, ma arrivavo a bomba dappertutto e collegavo anche Ottieri, Bonnannaro, da lì ho collegato Passada, capito? Mores, un sacco di altri posti, Castelsardo, capito? Solo con una decina di watt, con questa radio, quindi spaziavo abbastanza, capito, lì. E purtroppo è durata un paio d'anni con la fortuna di avere quell'antenna lì, ma poi ho dovuto smontare tutto perché sono andato via e adesso ce l'ho in garage tutta a pezzi, buttata là, infatti non lo so se la riutilizzerò, alla fine se mi capita l'occasione, se qualcuno ha la possibilità di sfruttarla, la posso anche vendere a buon prezzo, capito? Io l'avevo presa, diciamo, di seconda mano, ma è come se fosse nuova, era stata usata un paio di mesi e quindi era un'antenna nuova pagata 150 euro, capito? E bella, perfetta, già preparata, capito? È un'antenna dalle alte prestazioni, io l'ho provata, lo posso dire. E va bene, dai, mi fa piacere che sto riuscendo piano piano a riprendere la radio in mano, poi mi farò anche una postazione qua perché ancora sono un po' mezzo incasinato con la casa. E riprendi Antonio. Antonio, ci sei? Niente, salvato Antonio, si deve essere spostato allora. Oppure è andato, si è allontanato dalla radio un attimo. Vabbè, così io, Carlo, quindi piano piano ti risistemi, sicuramente hai avuto altre faccende da sbrigare più impegnative e più importanti nel frattempo, quindi ogni cosa a suo tempo, tanto ci vuole sempre, devi dedicare uno spazio temporale per risolvere le cose, quindi c'è poco da fare, pian pianino, poi come riesci a ripristinarti uno spazio in casa per poter trasmettere e stare tranquillo e sereno, penserai anche il discorso delle antenne e ciccia, pazienza, comunque l'attività in 27 riuscirai comunque secondo me a farla in un modo o nell'altro, usando anche questa per il momento che hai di antenna nella ringhiera, dai, non sarà la fine del mondo. Di nuovo a te, Carlo Salvatore K. Sì, bene, Salvato, sì, piano piano adesso ho diverse soluzioni per dentro casa, non ho problemi, posso mettere anche sulla scrivania, in camera da letto, la radio e l'alimentatore, ci arriva pure il cavo d'antenna lì, poi vedrò in seguito se avrò la possibilità di piazzarla sul tetto, allora lì si può di nuovo ragionare. funzionare un pochettino meglio in termini di potenza e di trasmissione, però vabbè, per adesso va bene così, salvato. Niente, io adesso mi sbrigo un po' di faccenduole, rimango in ascolto, poi se entrerà qualcun altro più tardi magari farò qualche altra provina a vedere dove riesco ad arrivare con questa antenna di fortuna. E niente, mi ha fatto piacere risentire Antonio, e a te non ti avevo mai sentito prima, Salvatore, quindi bene meda, dai, ce la risentiamo, e grazie delle prove radio, delle chiacchierate, e nel caso ci sentiamo anche più tardi. Sì, cappa Carlo, non c'è problema, io faccio prevalentemente attività radioamatoriale, e quindi guarda, adesso che ho visto che va bene le fioriti che ho messo, adesso sto salendo su un attimino nel lastrico per sistemare altre due cose, e poi passo in con la radio HF a fare degli altri esperimenti. Va bene, ciao Carlo, buona serata e a risentirci a presto, ha fatto piacere anche a me sentirti, e buon proseguimento di serata, saluto a tutti gli amici qui sul 10. Ciao Carlo. Ciao Salvatore, ciao Antonio, se sei ancora in ascolto. E deve essersi allontanato. Ciao ciao. Ciao, alle prossime. Alla guida del con attenzione al canale 10. Sì, chi è? Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, chi sei? Salvatore. Tu? Salvatore. Ciao, doppio rumo. Ehi. Ciao, e beh già. Tutto bene, Salvatore? Abbastanza. Prima stavo parlando con Antonio e con Carlo. Stavo giusto vedendo se un riassemblamento di ferriti qua sui cavi stava dando i suoi frutti, pare di sì, che c'avevo dell'RF valuta che stava andando in giro, e quindi messo a posto, e ora stavo dandomi le indicazioni qua delle varie scritte che mi permettono di ricordare al volo gli switch dove che mandano il segnale dalle radio. E tu? Hai sentito la nostalgia della 27 di nuovo? E io sono qui, io lo vedo tutte le sere qua, ma molte volte non c'è nessuno. Cazzo. Io ho risistemato la cosa, la Game Master, che avevo bruciato il condensatore, e ho visto come fare il condensatore da uno schema di uno che si era preso la briga di smontarla e di rifarla ex novo, la Game Master, con un piccolo stab in modo tale da utilizzare del cavo, e sembra che funzioni bene, quindi adesso procedo così. Prima evidentemente non ricordo cosa avessi fatto, forse in HF avevo dato qualche watt di troppo ed era partita. E niente, però prevalentemente faccio HF oggi, quindi ogni tanto accendo il Lincoln per vedere un pochettino se tutto funziona, e adesso l'avevo lasciato sul 10. Ancora a te, doppio room. Capo, sabato. Ciao, faccio maledetto. Arrangi, specialmente il radioamatore deve sapersi arrangiare da solo, costruirsi le cose. È buono, dai, la soddisfazione riuscire a aggiustare le cose. Ma niente di che, Salvatore, tu stai sempre lavorando, sì. Eh sì. Ho ancora probabilmente almeno 4 anni, perché potrò andare con i 43 anni di anzianità, diciamola così, almeno per quelle che sono le cose, posta nuovamente il traguardo quando lo stai per raggiungere, e quindi niente, sto sempre lavorando, sì. Interessante portare il pane a casa dopo in un modo o nell'altro. salute, tutto ok? Insomma. È un po' lunga la storia comunque, diciamo che di sì, dai. Però c'è sempre qualche rogna dietro l'angolo, capito? Non ho capito se c'è qualcuno che stava entrando o se nel canale vicino. Avanti qui sul 10. Ciao a tutti, ecco, osservate, non entri altri qua, collega. Ciao Gianni. Ciao Fabri, mi hai sentito, dai. dai, con piacere risentirlo qua, dai. Io sono sempre in ascolto, magari non entro, ma sto sempre ascoltando. Capito, ciao Salvato. Ciao Faber. Sicuramente sono andato a ritirare quelle ferrette che avevo ordinato da quelli di Fusaro. Che mi avevano telefonato anche ai primi di settembre, quando erano arrivate. E poi, già sai bene, con tutti quanti i discorsi, me ne praticamente mi è passato per la mente. L'altra settimana sono andato a ritirarli, mi ha chiamato la tizia, che figuraccia, gli ho fatto, guardi, ha fatto bene a richiamarmi, no, perché sa, a volte ci sono dei clienti, ordinano le cose e poi non vengono a ritirare, no, gli ho detto, guardi, veramente, mi crede, mi è letteralmente andato via dalla testa, meno male che mi ha richiamato e infatti ho preso il piede, sono andato subito a prenderlo. Allora sto distribuendo ferriti in tutto, Fabri, perché c'è quell'effetto pelle del bifero sul DRF, adesso lo sto riuscendo a contrastare, però me lo sono messo le ferriti nelle tutte le calate praticamente, anche nei cavi TV dove erano quelli che era quello che risentiva maggiormente, cavolo, il digitale terrestre non c'era verso, si andava a prendere e si accoppiava maledettamente. Sono a te Fabri. Capito. Io quando ho fatto tutti i lavori qua, mi risponderete, non ricordo che avevo questi problemi, ma è così un amplificatore, lo accendo per poco già, se cioè non lo accendo quasi niente, io lo accendo, ho detto, ma funzionerà o non funzionerà, niente, sono rientrato, mi sono messo a fare un po' di per quelli qua, mi sono messo a fare quel lavoro su un altro lavoro, ma non è vabbè, poi ti racconterò, vabbè, riprendi già. Via, che apparecchio stai usando Fabri adesso? Come? Che apparecchio stai usando? Il solito, il mio, il K. K è bella la radio, con l'MC60. Sì, con l'MC60, è sempre il mio, uso sempre questo, io sempre perciò il tutto con Galaxy, con il Galaxy tutto, quello l'ho modificato che c'è un interruttore, ma non mi piace, lo riaccendo, se funzionerà ancora. Devono funzionare. Ma vabbè che il Galaxy a me l'ho lasciato un paio di mesi a fermo e il coso, il frequenzimetro non si accendeva tutto, si accendevano solo le ultime due cifre, poi come l'ho lasciato acceso si è ripreso, non l'ho più fatto. Là sono i condensatori, bisogna cambiare tutti i condensatori, la prima cosa è poi riprovarlo. Come caricano, infatti si riprende. Già, ma tu so che sei oramai in pensione, giusto? E diciamo di sì, dai, sì. Ma la mata, però lo credo che sia. Vabbè, l'importante è che abbia risolto. Mentre vedi, a me Fabrizio ci serve ancora un po' di tempo, vedi, di in purgatorio. Fabrizio, dai, già è tranquillo, non mi ho sentito sbadigliato, deve essere stanco. Stanco, io sono stanco, sempre faccio le mie cose, tutti i turni, ormai sono sempre stanco. Vuole smettere, allora io quando vado via faccio il mio, però non è più il vero, gli occhi adesso, gli occhi un po' in gloria, perché poi devo tenere sempre gli occhiali ormai per guardare il computer, per guardare la vicina, quindi sono sempre gli occhiali al lavoro qua, e ti sembrava ti stanca, adesso mi stanno facendo una modifica a cavallo, 2000 vettori, dopo non lo faccio, mi c'è travino, se siamo delle cose, non riesco a andare avanti, non si può. Lavorando, facendo un secondo di lavoro, non me ne sono uscito perché ho sempre lavorato qua a casa, quindi ho un sacco di lavoro, ho dato anni incasinato, a parte cose che sono successe, vabbè, diciamo anni incasinato, ne sono uscito, adesso la lavoro, però c'è sempre tante cose c'è da fare, che riprendi il sabato. Fabri, senti un po', tu che fai sempre ricerche sulla rete e quant'altro, per caso le cuffie tradizionali, hai visto dei posti dove si vendono solo ed esclusivamente proprio il, diciamo, i cuscinetti, quelli che poggi alle orecchie? No, li avevo visti tempo fa, cioè, li avevo anche comprati io i cuscinetti. Le cercarli, perché non che fare una ricerca, l'ho trovata a suo tempo. Non so, così mi a cercarli, però mi ricordo che l'avevo trovati con due anche la marca, però mi sembra che sono standardizzati quelle grandi, tipo quelle che ho io grandi, non quelle piatte, di ritorno ho trovato quelle piatte io. Perché io avevo queste della Corsair che andavano bene perché mi avvolgevano completamente l'orecchio e sentivo perfettamente, mi isolava dall'ambiente, però sono degenerate, tutta quella simil pelle si è sbriciolata. Cavolo, e ogni volta ti trovi dentro le orecchie di tutto e di più. Fatto sta che le ho staccate del tutto per vedere un pochettino come erano cose, e sono semplicemente incollate le parti dei cuscinetti. Allora adesso stavo cercando di capire dove potevo trovare un posto, qualche posto, qualche sito dove si potevano acquistare, insomma, per sostituirle. Che porcheria, una porcheria mega galattica. Riprendi Gianni. Vabbè, basta che cerchi con Google, metti cuscinetti per cuffie e te li dà. Comunque io quelle delle Sennheiser, però io c'avevo quelle proprio che usano i DJ, quelle piatte, c'ha delle gomme a piume praticamente. Quelle le avevo prese da Vittorio, ce le aveva, le avevo prese da lui. Però sono quei cuscinetti, è proprio gomma a piuma, non sono rivestiti in pelle, è la gomma a piuma che è elastica, si inserisce e basta. L'ho cambiate perché anche a me mi si erano consumate. Capami, adesso sto cercando un pochettino, vedo se riesco a trovare qualcosa. Va bene, riprendi Fabri, io faccio questa ricerca. Va bene, fai la ricerca. Io già ce l'ho sempre acceso qua, no, io non ce l'ho acceso, io vado sul scenario che ci passa molto tempo, è sempre acceso questo canale, però non c'è mai nessuno, quasi mai, ultimamente sto risentendo qualcuno. Sì, vabbè, adesso come viene l'inverno, si rintanano tutti in casa e bene o male lo accendono, dai. Siamo sempre soliti, potevi entrare, non c'erano problemi. Sì, io lo so, anche qua l'altro giorno è entrato, oppure sto facendo magari un po' di HF, allora non preferisco ascoltare, dai, non ascoltare, là c'è la moto digitale, anche quella l'hai abbracciata, quindi non mi prendo la fastidio di sottovalore, per cui ascolto, dai, molte volte fa piacere ascoltare, e prendi, c'è. Vabbè, c'è una tua scelta, la rispetto, non c'è problema, però è orientato per cucù. Vabbè, dai, sempre sempre piacere, le persone in gamba fanno sempre piacere quando entrano. Cucù, cucù, avanti cucù. Ah, mi state a fare cucù. E quindi abbiamo fatto cucù. Oh, io, mamma mia, come sto. Cazzo sarà Fabri. Buonasera a tutti intanto. Ma io qua dalla finestra, nel cavello vero, nero, mi sa che piove stanotte. C'è caldo, c'è caldo, ero fuori poco fa, c'è caldo, sono ancora 23 gradi mi pare, però vedo che si sta nuvolando, le nuvole sono un po' cariche, si vedono cariche, l'acqua l'ha data in settimana, però non penso che piova stanotte. Però c'è caldo adesso, qua in che cosa sarà, è caldo che quando accendi qua già scalda in confronto alle altre parti, però c'era caldo, però tutto aperto, sto facendo circolare aria perché così sto bene, anche con le attrezzature accese, però c'è caldo, però va bene così, sto bene, dai, con la finestra chiusa stavo iniziando a soffrire, quindi già. Ho detto, se lo fa di notte la pioggia non c'è problema, e quando è di giorno che la fastidio, vabbè che c'è anche chi lavora di notte, Fabrizio, non ci ho pensato, vabbè, ma tu sei al chiuso. Infatti stasera, vabbè, no, stasera non lo so, vabbè, no, oggi è già pronto, oggi è già pronto, se no avrei fatto qualcosa su, magari avrei mangiato giù, con questi giorni forse domani. Peppa Gappa, no, io c'ho la finestra aperta, anche quella del salone è aperta, circola bene l'aria, poi è meglio sempre arieggiare, fare, che poi inizia il freddo, i muri si raffreddano, è meglio che la casa sia bella asciutta. Ehi Fabrizio non esci, Fabrizio non esce quando sta piovendo, fa già, non ti preoccupa, già fa uscire gli altri. Già lo so che lui è in ufficio, e vabbè, ma deve scendersi anche dalla macchina, cazzo, si può bagnare lo stesso. Ciao Giovanotti. Ciao, ti senti? Diciamo, ragazzi, se posso non riesco a passare a loro, perché c'è un problema, tanto deve arrivare, perché parcheggia la macchina, arrivare, poi arrivare, eccetera. Sì, e se ne faccio il mattino, arrivo lì, mi vado due cose, poi faccio la passeggiata, se devo sapere se il caffè c'è proprio bello, poi scendo giù e inizio a cosa, io faccio il tecnico, se ho problemi, un diretto lo devo fare per vedere il caffè, che non ne faccio più, però se ho un problema devo andare a vedere, quindi, che è rimasto a suo, oggi per esempio sono uscito solo per andare a mangiare, dipende dalle giornate, da cosa succede. Lì è rimasto, ma già non mi faccio quello che devo fare, non è che mi ammazza, e prendi Tino. Buonasera, non sono Tino, ciao Gianni, Claudio e Fabrizio, Carlo qua da Sassari. Ciao Carlo. Perché sei così basso, Carlè? Perché sono con una, diciamo, stazioncina che ho fatto oggi, capito, di emergenza, giusto per rimettere in moto tutto. E non ho più la casa di prima e quindi adesso devo vedere se riesco a mettere sul tetto. Praticamente sto usando un antennino della macchina sulla ringhiera del terrazzo. Come 25 qua, si e sarà in zona tua, qua è 9 comunque, sì Carlo, ma abituato a vedere 9 più 30 tuo, lo so, saputo, me l'ha detto Roberto. Ok, speriamo che metti tutto a posto, dai, no, che non ci siano problemi. Avanti, Fabri. Ehi, attenta che ci vuoi finire, che è una cosa. Carlo, rimetti l'antenna grande. Ciao Gianni, se avrò la possibilità, sì, ce l'ho smontata. in garage, ogni tanto me la guardo, però è un casino qua perché praticamente non c'è un accesso per tutti, ma al tetto si accede tramite l'appartamento di un privato, capito? Quindi dovrò chiedere il permesso e dovrò entrarci piano piano. Se riesco a metterla sul tetto già va bene, però piano piano, dai, per adesso mi sto aggiustando così. Ho ripreso oggi così perché ho qualche settimana di ferie e quindi stavo un po' rimettendo a posto tutte le cose, ho trovato le radio e quindi ho voluto provare. Mi ha fatto piacere risentirvi, dai, un po' tutti, vuol dire che ancora al canale 10 qualcuno c'è. A te Claudio. Sì, mi aspetta l'inverno che sarò più assiduo, vedrai la gente che faccio entrare, non ti preoccupare, piano piano già ci stiamo rimettendo, ieri ero in radio lo stesso, c'ero io Fabrizio, Dino, insomma, Garrino, riusciamo un po' a rimediare, dai, piano piano, perché molti CB siamo diventati radioamatori, quindi ci dedichiamo un po' alla parte amatoriale, ma non è detto che non si possa fare anche questa cosa. Vabbè Carlo, ma se lì hai il poggiolo libero, che è, per dire, sei all'ultimo piano, no? E quella Smart Tech non ha radiali, quindi le fai una staffa a ringhiera e te la butti lì senza rompere le palle a nessuno. Lo so Cla, ma non sono all'ultimo piano, se no non avrei avuto problemi, sono al secondo piano, quindi la palazzina è piccola dove abito io adesso e siamo 5 condomini, però l'ultimo piano praticamente è il terzo piano, capito? Io sono al secondo, quindi anche come discesa avrei pochi metri di cavo, capito? Tutto sta poi a vedere se c'è il posto per piazzarla l'antenna, altrimenti dovrò rimettere la SD27 oppure se riesco metto la J-Pol, speriamo di riuscirci prima o poi. Aspettare la rottura di balle di queste cose, la rottura di balle. Però dai, se quello del terzo piano è una persona che si può ragionare, non penso ci siano problemi, assolutamente. Anch'io davo l'accesso alla mansarda, passavano dalla mia mansarda quando stava Carbonazzi per i problemi d'antenna, per i problemi, insomma, ci poteva essere un problema di tetto, eccetera. Quindi hai diritto all'accesso, non è che non ce l'hai, però trovi sempre quello, rompi balle, non ti fai abbassare, non venuto dalla, però il diritto c'è l'antenna, quindi sei in regola, perciò dovresti avere tutte le carte a posto per poterla piazzare. Beh, se c'è il posto, la Smart Tech è abbastanza robusta e quindi monti quella, non montare altre antenne, non stare lì a cincischiare, vai diretta con quella, vai Gianni. Infatti lo stavo per dire, io metto tutte le parole da bocca, come diciamo che gli spetta passare lì, però bisogna vedere che persona trova, quello è. E poi non siamo più tutelati adesso che non si paga più tassa, quindi non mi sento più tutelato da nessuno, perché se qualcuno chiama perché fai TV e roba del genere, io non sono tutelato perché non pago più tassa. Ma poi bisogna stare molto attenti perché c'è nuovamente il barro in culo dell'Esco Radio, quindi la tutela è proprio ragione, cioè zero, per gli 11 metri zero, capito? Basta che rompi le palle, chiamano e te ne buga tutto, capito? Tutto lì. Vabbè, speriamo bene, Carlo, speriamo bene, dai, che riesci a sistemare bene le cose. Vediamo se Fabrizio si è liberato. Fabrizio. E con quella nuova scatta una mattina dal figlio che gli ha coordinato l'uomo, ma questo non è giocare a pallone al momento. Io. Vai Carlo, che zona sei? Giusto così, zona solo, che zona è? Sono in via Prunizzetta, Cla, più o meno un pochettino più giù di dov'ero, capito? Ce l'hai presente dov'era il negozio di scarpa? Che c'è quella specie di incrocio, piazzetta? salendo lì c'è l'inizio di via Frunisedda, io sono lì in quel palazzino giallo. Ah, buono, buono, è una bella zona quella, una bella zona, infatti sei 9, con l'antenna della macchina mi sta arrivando a 9, considera che già ne 9 più 10, quindi tu sei 9, ottimo segnale, però chiaramente io l'ho abituato a vedere il 9 più 30, poi mi dici se ti sto arrivando bene io, avanti già. Io sto uscendo col gas, se solo con l'autobahn, perché gli ero abbassato. Niente. Sì, va bene, a me arriva bene, dai, non c'è problema. Dove l'hai messa l'antenna? Sul terrazzo? Sì, sul terrazzo c'ho tutta una serie di ringhierette, ne ho trovato una e l'ho appiccicata lì, però senza base magnetica, capito? Ho messo un supporto, diciamo, quelli che vanno nei camion, eccetera, fa ben contatto, capito? E quindi non ho nessun problema, qua ho controllato il segnale, tutto a posto. Sì, vanno bene. Anch'io l'avevo piantato al primo periodo che avevamo riaperto la 27 dopo tanti anni e riuscivo con un portatile, un booster per caricare la batteria e un linearetto da 70 watt con un'antennina piazzata sulla ringhiera e mi ascoltavano tutti. Piano piano, come tutte le cose, adesso pian pianino riprendo, adesso che mi sto un pochettino mettendo a posto, sistemato tutta la casa, già è un appartamento nuovo e questo palazzo è costruito 13 anni fa, l'hanno costruito, quindi non ho dovuto fare niente, c'ho il condizionatore, televisore, divano, cucina, camera da letto, c'ho il bagno, c'ho il garage, praticamente ho tutto quello che avevo là, un po' più piccolo, però già va bene così, l'appartamento è nuovo di zecca. Ehi, vabbè, interessante che ti sia risistemato. Un giorno venitemi, chi vuole venire tranquilli e pacifici, ci facciamo una bevuta di birra o qualsiasi altra cosa, o il caffè, quello che preferite. Se venite a trovarmi già mi fa piacere, Gianni. Turni permettendo, questi giorni sono in ferie, quindi rientro giovedì al lavoro, capito? Sempre coi turni, però la cosa positiva è che non faccio più le notti almeno, me le sono tolte dal groppone, solo mattina e pomeriggio. Ah, buono, è buono per te, dai. Buono per tutto, mamma mia, le notti le ho fatte anch'io, non è fattibile, puoi fare per un po', però poi non c'è niente da fare, assolutamente. E poi già ci mettiamo d'accordo con Carlo, qualche giorno vai, ti telefono, già c'è il numero, ci mettiamo d'accordo anche di mattina e ci prendiamo un caffè. Così mi racconti un po' la situazione. Mi allontano un attimo, vado a farmi una sigaretta fuori veranda, dice anche mia moglie, e ci sentiamo tra un attimo. Riprendi Carlo, poi prova a vedere se è rientrato Fabrizio. Va bene, già siamo qua. E allora Gianni, cosa mi racconti di bello? Ah, niente di che, c'avevo la macchina ferma 3 mesi. Purtroppo mi si è rotto il piantone dello sterzo. Arrivato sbagliato, poi ci sono andati in ferie e quindi io sono stato senza macchina tutta l'estate. Sì, caspittina. Io oggi ho fatto fare i freni nuovi, dischi e pastiglie, perché non li avevo ancora cambiati in questa macchina, mi avevano detto che erano al limite, il meccanico mi aveva detto ci vediamo a settembre, invece settembre è passato, poi mi sono ricordato e visto che sono in ferie ho un po' di tempo, stamattina gliel'ho portata e intorno a mezzogiorno era già pronta, capito? Non ci vuole molto tempo a fare i freni. Li ho fatti anche io 2 giorni fa, dischi di dietro e pastiglie. Adesso quando faccio il tagliando li faccio quelli di davanti, perché ogni volta che faccio il tagliando o me li cambia davanti o me li cambia dietro, una volta uno, una volta l'altro. Va bene, infatti, così, io faccio così con le gomme, cambio quelle anteriori e quelle poi le faccio dietro, capito? Per non avere la spesa tutta insieme, è importante avere quelle anteriori buone. Anche io lo faccio per consumare giusto. giusto, perché quelli lì davanti erano il motore e consumano di più, quindi bisogna per farli consumare omogeneamente, anche quello ho fatto da poco. Esatto, sì, e beh, un po' di economia, diciamo, quando si può fare si fa volentieri, perché io ultimamente ho avuto un sacco di spese, capito? E adesso già ne sono uscito, però e quindi è tutto ok, adesso sono a posto qua l'appartamento, ma lo sono comprato, capito? E così non devo stare a pagare affitto, eccetera, no. Pagato affitto, sempre in casa di proprietà, grazie a Dio. Il problema è che questo mi è piaciuto l'appartamento e l'ho dovuto prendere un po' in fretta e furia, quindi non sono stato lì a guardare ultimo piano, eccetera. Se no, capito, mi sarebbe andata meglio così se avessi avuto l'ultimo piano, capito? Però purtroppo era già occupato e chi ci abita già è una persona come si deve, una persona con la quale ci parlo e lo conosco da anche da prima di abitare qua, capito?